Suavecito, sandungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando el ombliguito. Y moviendo suavecito, sandungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando el botecito. Tecito, tecito, tecito, tecito, tecito, tecito, tecito, tecito.